Facciamo la nostra meditazione oggi su, partendo dal libro di Giona, pensando che il libro di Giona è un libro molto simpatico, bello, breve dell'Antico Testamento e ci può illustrare, ci può aiutare a fare la nostra orazione su un aspetto della nostra vocazione. O anche, diciamo, perché ho pensato che il libro di Giona non parla in realtà della globalità della sua vocazione, ma di un incarico specifico che lui ha ricevuto nell'ambito della sua vocazione. Adesso, perché il... Ecco, adesso tra tanti segni proprio lui è saltato, chissà perché, per un misterioso motivo, nella Bibbia che io porto con me, è proprio così. Allora, perché devo dirvi che la... Eccolo qua il libro di Giona, sono 4 capitoletti molto brevi. Lo si cita una volta sola il profeta Giona prima del suo libro, nel secondo libro dei Re, e si parla della sua vocazione come profeta. E, solo per dire, ecco, nell'ambito del re Geroboamo II, che regnò per 41 anni come re di Israele, che peraltro non fu un re esemplare, no? Perché quello che dice di lui il libro dei Re, che dice: fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si allontanò da nessuno dei peccati che Geroamo, il figlio di Nebat, aveva fatto commettere a Israele. Però nell'ambito di questo suo regno c'è questo profeta Giona, figlio di Amittai, e grazie a lui questo re sente, secondo la parola del Signore, e riesce a conquistare per Israele alcuni territori in più. Perché? Perché Dio, il Signore, aveva deciso di non cancellare il nome di Israele sotto il cielo e quindi gli dà un beneficio così, diciamo così, politico, suggerendo a questo Geroboamo cosa doveva fare, proprio per mezzo, ecco, secondo la parola del Signore, Dio di Israele, pronunciata per mezzo del suo servo, il profeta Giona. Allora io penso che noi, guardando alla nostra vocazione e anche alla vocazione di tutte le persone, possiamo dire di tutte... E di tutti gli uomini che sono chiamati alla santità, sono chiamati a essere con Cristo, e i battezzati lo sono davvero, e poi le persone dell'opera hanno ricevuto così una vocazione specifica per cercare di identificarsi con Cristo nella loro vita quotidiana, nel loro lavoro, nelle relazioni di amicizia, nelle relazioni familiari, eccetera, no? Nella vita sociale. Quindi nell'ambito di questa grande vocazione che ciascuno riceve, poi a un certo punto avvengono degli incarichi che Dio dà più specifici, no? Per un certo tempo, per un certo che noi, di cui noi abbiamo esperienza, no? E in effetti il libro di Giona, poi c'è chi dice che è una storia, chi invece più adesso si tende a pensare gli esegeti, che sia un racconto, una parabola. Comunque Gesù la cita, cita sia Ninive, che si è convertita alla predicazione di Giona, sia il segno di Giona, che poi è immagine e previsione del sepolcro dei 3 giorni di Gesù, quindi della morte e risurrezione di Gesù. Per cui in effetti tra i libri dell'Antico Testamento, nelle parole di Gesù, questo libretto ha molta fortuna, no? E allora ecco, Giona, questo libro racconta di un incarico. A un certo punto vedete che lui è profeta, fa il suo lavoro lì con questo Geroboamo non particolarmente esemplare, e a un certo punto, infatti il libro comincia così improvvisamente, no? Come fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. In effetti anche questo posto viene citato una sola volta da Isaia come una delle isole che non hanno mai sentito parlare di Dio, e che invece a un certo punto arriverà anche a loro la parola del Signore, no? Quindi Giona dice di no al Signore, cioè se ne va proprio dall'altra parte, no? Il più lontano possibile. E una spiegazione che si dà è che lui, ecco, evidentemente viveva la sua vocazione di profeta nell'ambito di Israele, e aiuta Israele a crescere, come vedete, no? Invece questi niniviti sono i nemici di Israele, sono gli assiri, e lui non gli va di andare ad aiutare questi nemici di Israele, e scappa lontano dal Signore, perlomeno lui spera di essere lontano. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Non solo scappa lontano dal Signore, ma quando vede che c'è un po' di tempesta, o comunque scende giù nel profondo della stiva della nave e si addormenta. Beato lui, no? Che ha un sonno pesante nonostante i problemi. Possiamo, in realtà io, a proposito di patrono del sonno, devo citare San José Maria, perché dobbiamo valorizzarlo nella devozione così personale quando ci sono problemi di sonno. Ho avuto molti buoni risultati, sia personalmente che anche così suggerendolo. Però se volete potete anche aggiungere Giona, come invocare San Giona per dormire bene. Veramente anche Gesù dorme bene sulla barca in tempesta, senza nessun problema. E va bene, allora, quindi questo è una prima, diciamo così, richiesta al Signore, di riuscire a dormire sonni tranquilli nonostante i problemi. Però allo stesso tempo, ecco, noi andando avanti notiamo delle cose molto interessanti in questo libro, perché i marinai, tra l'altro, sono personaggi che reagiscono in modo molto bello ed esemplare. Intanto pregano ciascuno il loro Dio. È tipico dei marinai essere di varie regioni, quindi hanno religioni diverse. Anche oggi succede così, sulle navi, no? Però alla fine si accorgono che non succede niente, il mare continua ad essere agitato. Allora scendono a cercare questo Giona, si sono accorti che lui è scomparso. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi richiama Giona alla preghiera, no? E dissero tra loro: venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni. Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. In questo Giona si riscatta perché di questa sua fuga, perché riconosce il suo errore e anche lo svela senza paura, no? Quindi in questo dobbiamo anche imparare da lui a riconoscere serenamente i nostri errori, a saperne chiedere scusa, che proprio va bene, è molto bello, aiuta molto tutte le persone. Anche a volte dobbiamo anche chiedere scusa di un errore non voluto, no? Che nel nostro lavoro si può realizzare perché non ci abbiamo pensato, perché non abbiamo pensato che quella tal cosa, non abbiamo avuto un'attenzione, no? Non è una colpa morale, perché veramente a volte anche è Dio stesso che nel guidare il nostro lavoro ci impedisce di avere una certa vista, un certo sguardo, perché poi da lì ne può venire comunque un bene, no? Da una piccola dimenticanza o un errore, una disattenzione. Però il bene che ne può venire intanto è il fatto di saper chiedere perdono, no? Di saper chiedere scusa. E Giona lo sa fare, in effetti riconosce che lui è scappato lontano dal Signore. E poi dice la sua fede, e pensate che questo ha un effetto alla fine, che questi uomini arrivano insieme a pregare il Signore Dio di Israele. Cioè prima pregano tutti i loro dei, e per cui proprio Giona, che in qualche misura forse non voleva andare dai Niniviti perché pensava questa il Signore è solo per noi, cioè era un po' esclusivista, no? Deve essere solo per Israele. Com'è questo fatto che adesso Dio si occupa anche dei nostri nemici, no? E invece anche attraverso questa vicenda della sua fuga, il Signore arriva a parlare di lui attraverso il profeta a questi marinai di lontani paesi che non avevano mai sentito parlare del Dio di Israele, no? E gli chiedono: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Il mare infuriava sempre di più. E lui dice: prendetemi, gettatemi in mare, si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Anche in questo Giona ha una sua grandezza, anche se forse lui alla fine pensava: vado in mare, annego e così tanti saluti, no? Quindi come un'ultima fuga dal Signore, no? E però è vero che prende su di sé la responsabilità di quello che è accaduto, e quindi si offre, eh? In questo anche c'è, nella pienezza della santità di Gesù, anche in questa è figura del Signore Gesù che si offre, non ha fatto nessun male evidentemente lui, però si fa peccatore con noi per salvarci, no? E questo in tutta la nostra, ecco, nella vocazione nostra che abbiamo ricevuto e negli incarichi che il Signore ci affida, noi possiamo chiedere al Signore di poter avere questo stesso coraggio, no? Ecco, affronto io le difficoltà in prima persona. In effetti a noi può capitare, nelle piccole cose che il Signore ci affida, che il Signore ci offre, le problematiche del lavoro di governo o anche nell'aiuto delle persone che si rivolgono a noi per essere aiutate appunto ad avvicinarsi al Signore, a vivere la loro santificazione in mezzo al mondo, a imparare, no, nel cammino ad identificarsi anche con lo spirito dell'opera, noi possiamo intravedere o vedere proprio delle situazioni problematiche che magari ci spaventano un po', che è faticoso affrontare, e allora questo esempio in negativo di Giona ci deve richiamare, no? E allora dentro di noi diremo al Signore: aiutami a non fuggire a Tarsis, e ad avere il coraggio di rispondere a questa tua chiamata, che può essere personale o può essere anche collettiva, no? Cioè, vi offro questa situazione da governare, no? Mi viene sempre in mente, mi piace citarlo, il San Giovanni Paolo II, che era solito quando si riuniva con il suo consiglio episcopale lì a Cracovia, e appunto sempre arrivano sul tavolo di chi ha questi compiti di governo della Chiesa, problematiche, no? E situazioni difficili. Allora lui incitava i suoi collaboratori a dire quale brano della scrittura getta luce su questo problema, oppure quale punto della nostra fede. E questo è un bel modo di affrontare le cose. E in negativo, ecco, questa vicenda di Giona ci aiuta a pensare che se può succedere qualcosa, che se non prendiamo in mano una situazione, poi avviene la tempesta, no? La tempesta che non è stata causata da noi appunto apposta, ma per il fatto che non abbiamo, che so, non siamo arrivati per tempo, no? Vi ricordate San José Maria, che quando anche nel suo istruire, no? Chi, anche nell'opera dei compiti di governo, diceva arrivare per tempo è essere anche attenti, essere, ecco, percepire con attenzione i segnali che possono giungere dalle persone che aiutiamo, e anche poi saper triangolare, perché diceva a volte la linea retta non è la soluzione più efficace, no? E a volte diceva anche saper aspettare, no? Ho imparato ad aspettare, e non è una scienza da poco, la capacità anche di Gesù di aspettare il tempo opportuno, no? Per la sua ora. E ecco, effettivamente poi anche questi marinai, si vede che sono proprio persone, come si potrebbe dire, timorate di Dio, no? Perché temono di fare questo peccato, no? Di gettare Giona in mare, però pregano e si rendono conto che il Signore gli sta chiedendo questa cosa così singolare. Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo, non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. E il Signore presero Giona, lo gettarono in mare, il mare placò la sua furia, quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, nel senso positivo del rendersi conto che Dio esiste, che Dio è grande, che Dio ecco, interviene, soprattutto anche quando obbediamo a Lui, no? Anche quando è così difficile, come in questo caso, offrirono sacrifici al Signore, gli fecero promesse. Questo è il primo quadro di quello che è successo a Giona con questo incarico che gli è capitato tra capo e collo e che lui proprio non desiderava. E il secondo quadro è quello che Giona non poteva sapere. Che il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse. E qui c'è una preghiera di Giona bellissima. Allora, che cosa possiamo pensare? Effettivamente, devo dire che nel preparare questa meditazione mi è caduto l'occhio su una noticina che c'è qui di fianco alla Bibbia, evidenziata in rosa, e che dice: il grosso pesce che inghiottisce Giona è femmina. Questo concorre con tutta una serie di altri simboli che richiamano l'utero materno, le acque, le alghe che avvinghiano la gola, a delineare una sorta di nuova nascita da parte del profeta. E questa è una notazione, ecco, a cui non avevo proprio pensato. E in effetti noi popolarmente si dice la balena, no? quindi nella nostra lingua italiana questo grosso pesce ha un nome femminile. Comunque, pensate al fatto che effettivamente questa è una nuova nascita del profeta, è proprio quel ritornare nel seno della madre, quella nuova nascita che, vi ricordate, Nicodemo che va a trovare Gesù non credeva che potesse avvenire. E Nicodemo dice: è possibile mai che un uomo rientri nel seno di sua madre e una seconda volta? E fra l'altro, vi ricordate che nel mio racconto in Sorpresa dall'amore, mentre meditavo su quella scena, ho pensato effettivamente Gesù non lo contraddice, cioè Gesù non gli dice: ma certo, no, io non intendevo quello. Gesù non dice niente su quell'obiezione di Nicodemo, e in effetti a noi accade una nuova nascita, il battesimo è una nuova nascita, e la presenza di Maria nella storia della salvezza come madre di tutti e di tutti i credenti e di tutti coloro che vengono salvati, di tutti coloro che entrano nella nuova nascita in Gesù, è una realtà che riempie di tenerezza materna la nostra vita cristiana. Pensiamo anche che tutte le nostre nuove nascite, no? Se noi intendiamo la conversione come una nuova nascita, la tenerezza del grembo materno di Maria, del grembo materno della Chiesa, ci dà molta fiducia. E noi sappiamo che, anche essendo effettivamente l'Opus Dei una parte della Chiesa, nostro padre diceva: l'opera per noi deve essere come lo è una madre, no? Una madre bella, anzi la chiamava la madre guapa, no? E come l'opera una madre bella per ciascuno di noi, questa famiglia a cui apparteniamo, questa piccola porzione della Chiesa, come piaceva chiamarla a San José María, anche al padre continuamente la chiama così, questa piccola porzione, anche Don Alvaro, no? La piccola parte della Chiesa, e madre bella, e quindi madre è colei che genera, è colei che anche custodisce nel grembo per il tempo opportuno colui che deve nascere, o in questo caso rinascere. E penso che ciascuno di noi, no? Deve essere questo grembo, e poi anche tutti insieme. E questa, la tenerezza del grembo materno che dà la vita, e poi dopo anche la madre, quello che fa è, dopo aver generato, no? Come fa questo pesce che a un certo punto, ecco, è come un parto, una buttagione sulla spiaggia, no? E poi dopo la madre nutre lungo tutta la vita, custodisce e riempie d'affetto, di attenzione il figlio, come fa Maria con Gesù e con ciascuno di noi. Come fa la Chiesa? Come fa la Chiesa? Io in questi giorni, leggendo continuamente, ma in questi giorni ho letto il discorso del Papa a Firenze per la Chiesa italiana, e noi continuamente siamo nutriti dalla Chiesa, che bello, no? E da Dio che sceglie continuamente padri fantastici per noi, no? E ci riempie di un insegnamento meraviglioso e adattissimo, che ci nutre. Così dobbiamo essere anche noi nel nostro piccolo, diciamo così, no? Madre che genera, no? Come questo pesce che tiene nel suo ventre caldo John e lui in effetti lui riesce a rinascere e fa una preghiera bellissima. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Signore mio Dio, quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. Cioè, proprio anche nel momento peggiore, nel momento in cui uno viene buttato in mare, nel mare in tempesta, non è una bella sensazione, no? Pensa proprio qui la mia vita finisce. E invece in quel momento ecco il pesce che ti prende e che ti fa rinascere, no? Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore, la mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, adempirò al voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Era ormai Giona pronto a rinascere. Era pronto a riprendere in mano quella sua, non tanto, cioè, la sua vocazione di profeta come ambito più grande, ma quell'incarico specifico che esulava da quello che lui pensava che dovesse essere l'orizzonte del suo essere profeta. Cioè solo il regno di Israele, invece no, il Dio lo manda a Ninive e gli ripete il comando. In questo, Signore, noi dobbiamo pensare co come sei. Ecco, in questo terzo e quarto quadro si vede come il Signore è misericordioso, come non solo è tenace nella sua misericordia, vuole convertire i ninivi e vuole che sia Giona. E non deflette dalla sua decisione e non gli toglie la fiducia quando lui appunto, ha fatto quello che ha fatto. No? Gli ripete: vai a Ninive, la grande città, annuncia loro quanto ti dico. E Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Cominciò Giona a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Il commento dice: la predica più breve della storia. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Eppure la predica più breve della storia, forse proprio perché è breve, non come la mia di oggi, allora ottiene miracolosamente la conversione dei Niniviti e anche del re, cioè veramente è una conversione di tutta la città, una cosa straordinaria. E loro sperano che Dio, chissà che Dio non cambi, che si ravveda. E in effetti Dio vide le loro opere, cioè fanno tutte le opere di penitenza, no? Anche gli uomini, anche gli animali, gli armenti e i greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevono acqua, cioè il digiuno lo fanno anche gli animali. E Dio si ravvide e riguardo al male che aveva minacciato di fare, non lo fece. E il Signore vuole la conversione di tutti i peccatori, no? E la vita, no? E noi in questo tempo della misericordia lo meditiamo di nuovo. E invece ecco, vedete, nonostante la sua nuova nascita, Giona non si era convertito del tutto, possiamo dire così, no? Quindi aveva deciso di essere docile al Signore, di obbedirgli, ma probabilmente pensava: vado a Ninive ad annunciare la distruzione e finalmente poi Ninive sarà distrutta. Cioè sperava in un esito diverso della sua profezia, no? Cioè che veramente avvenisse. E invece il Signore lo supera e Giona si sdegna. E si sdegna. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a sfuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira di grande amore che ti ravvedi riguardo al male minacciato. E allora toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Allora io penso che noi non arriviamo a questi eccessi, però possiamo a volte avere una reazione umana di fronte al fatto che le cose non avvengono come noi vogliamo, che non abbiamo il risultato che vorremmo dal nostro lavoro, dal nostro impegno. Dobbiamo lasciare che il Signore agisca con la sua misericordia, con i suoi tempi. Il Signore è buonissimo con lui. Ti sembra giusto essere sdegnato così? Gli dice il Signore. E allora, però lui se ne va in una capanna e aspetta gli eventi. Allora, vi ricordate, no? Quella pianta di ricino che il Signore fa crescere, un po' per coccolarlo un po', da un lato. Infatti lui è tutto contento perché gli fa ombra, è tutto felice, no? E poi dopo, il giorno dopo, la pianta il Signore la fa seccare e lui si sdegna di nuovo, no? Si dispera. Meglio per me morire che vivere. E Dio lo utilizza per dire: ma ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? E Giona, che ha un buon rapporto con Dio, possiamo dire che ha un rapporto di filiazione, anche se non è così esplicito come possiamo averlo noi. Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta, in una notte è perita, e io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali. E così si interrompe il libro, lasciando a noi una domanda di Dio a noi. Noi, ciascuno di noi la può applicare alla sua vita, no? A volte ci scoraggiamo o ci rattristiamo per cose piccole e il Signore forse ce le sta lasciando come la pianta di ricino per dire: dai, abbi il cuore grande come il mio, pensando a tutto il mondo, no? come il cuore di Gesù, a tutta la Chiesa, pregando per il Papa e per la pace del mondo, pregando per le persone che ti sono affidate, avendo per loro la fiducia che io stesso ho avuto nel mio profeta Giona, con una pazienza infinita, ricordandoci di quello che San José Maria diceva in cammino, che forse lo diceva in modo autobiografico, diceva, vi ricordate, diceva: stare a capo di un'opera di apostolato, lo cito a memoria, significa soffrire tutto in tutti con un'infinita carità. Chiediamo al cuore di Gesù, al cuore di Maria, questa carità di Dio e che riempia il nostro cuore e guidi le nostre giornate.